I tuoi messaggi son cartelle di Equitalia e mi ricordano che abbiamo un menù. Ma attenzione a non sporcare la tovaglia stando qui a mangiarmi il fegato. Buongiorno. Buongiorno, senta, lei, se è venuto per le scarpe, mettiamoci d'accordo prima, perché dopo non voglio grane, capito? Io faccio solo scarpe destre, se ne conviene bene, se no se ne vada, che numero... Calma, calma. Sei tu Pasquale Ciccia Calda? Ciccia Calda, lo sai che hai debiti con tutto il paese? Modestamente, ma faccio. Devi pagare 5 scudi per l'affitto di 2 anni arretrato. Non ho vieto. 3 al macellaio e 2 al fornaio. Totale 500 scudi. E come arrivo a 500 scudi? 5, 2, 7 e 3, 10. Lei arriva a 500, 490 di chi? E le tasse? Quale tasse? 490, sono per un anno di tasse arretrate. Ah sì? Ma cosa si è messo in testa il Benur? Ma dove vogliamo arrivare? È ora di finirla, capito? Allora, vuoi pagare sì o no? No! E perché? Perché? Per due motivi. Primo, perché non c'ho molto. Secondo, perché sono in bianco stizzito. E allora sarai bandito dal paese. Bandito io? Ah sì, si bandisce un galantuomo con 12 gemelli sulle spalle da mantenere, da sfamare, dico, ma oh! La legge del balzello parla chiaro. Sequestro e vendita di ogni bene del moroso. Come ha detto lei? Del moroso! Non offenda, sa. Per regola della masù, io non sono amoroso, io sono un uomo serio. Ma faccio i fatti miei e se lo vedo. Ha capito? H. Basta! Poche chiacchiere. Poche chiacchiere. Dunque, io, ufficiale del balzello, eccetera, eccetera, eccetera, mi sono recato in casa di Pasquale Ciccia Calda. Ma perché a lei Ciccia Calda fa schifo? E procedo al sequestro. Io scrivo e tu detti. Che cosa ha detto? Descrivimi mobili. Avvoltoio. Comincio da questo, Letto matrimoniale a 12 piazze. Gli storici asseriscono che questo letto servì a Numo Pompilio nella sua prima giovinezza. Valore? 100 scudi. Questo Samir egiziano da Pomicio, il celebre storico greco Esanofele, asserisce nei suoi testi che, detto Samir, servì a Cleopatra per il suo primo incontro con Marco e Antonio. Valore? 100 scudi. Questo scabello a 4 zampe, in pura noce di cocco, ha suscitato accese discussioni fra gli esperti del genere, della materia. I primi asserivano tenacemente che questo scabello sia un Luigi XV, i secondi invece erano d'accordo che fosse un Luigi XVI. Io non sono d'accordo né con l'uno e né con gli altri, perché per me questo scabello è un Gaetano della prima maniera. Valore? 100 scudi. Oltre, passiamo oltre. Lampadario di Murano filettato d'oro brunito, 4 facciate, 1 luce e un singolo. Valore? 100 scudi. Qui invece abbiamo accessori, servizio da toilette per 12. Questa è porcellana finissima etrusca lavorata a mano, 4 secolo. Valore? 200 scudi. Ha tirato le somme? Quanto fa? Secondo i tuoi calcoli, sì. 600 scudi. Allora 600 io le devo 500, è vero? Sì. Lei mi deve dare 100 scudi a me. Ma mi vuoi prendere in giro? Come sei? Ricordati che io sono un pubblico ufficiale, ti posso fare anche arrestare. Ma e poi qui rimane tutto sequestrato e tu sarai bandito dal paese. Io? Ma scalzone farabutti, che se mette piede un'altra volta in questa casa ti faccio due occhi così. Che cosa hai detto? Che hai detto tu? Ripeti se hai coraggio. Io parlo. Certo. Ah. Sono solo. Ah. Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada nel palazzo.

Ragioniere, non coglioniamo, va. Cioè, tu mi vuoi dire che in 4 anni abbiamo guadagnato solo questa miseria? Dai, dai, va, non scherziamo, va, dai, dai, per piacere, non va. È poco. E poi, sa, tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Ma che difficoltà? La crisi, le tasse. Tasse? Non nominare mai più quella parola in mia presenza. Ma che tasse è tasse? Ma, signor Cetto, io qualche migliaio d'euro lo devo dichiarare. Ma non destare sospetti. Capito, no? Un po' di tasse dobbiamo pagare, mi creda. Tasse? Ma signore, ma che sta succedendo qua? Uno manca 4 anni e siete usciti tutti di testa. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Ca tasse non se ne pagano, caccio caccio. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you drive to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Carmela? Sì. Quel tuo nipote. Quel tuo nipote, lo dicevo io. Avanti! Zio, c'è il signor Moroncelli che ti vuole parlare. Ti richiamo dopo, gente. Prego, si introduca. Dottore, io sono un uomo morto. Morto in che senso, mi scusi? Morto seriamente o morto di fame? No, no, morto veramente, almeno per l'anagrafe. Ecco il certificato di morte. Le pensano tutte per non pagare la tassa. Dica, dica. Dunque, vengo al punto. 8 anni fa cercai di sposarmi e quindi richiesi i documenti. Per un errore anagrafico risultò che io ero deceduto. E questo fu l'unico pezzo di carta che mi rilasciarono. Protestai che ero vivo. Vollero un certificato di sopravvivenza autenticato dal notaio. Vollero i testimoni. Una sentenza del tribunale, cose che giacciono regolarmente da 8 anni circa in un cassetto della magistratura. Cerchi di stringere. Sì. Insomma, io non mi posso sposare, non posso avere il passaporto, non posso avere la patente. Sono morto per tutti. Va bene, ma allora si rivolga all'obitorio. Io che c'entro? Non mi ha capito. Morto per tutti, tranne che per le tasse. Sono anni che continuo a pagare. Ma questo è il dovere di ogni cittadino. Ma certo, è il dovere di ogni cittadino. Ah, ve lo concedo. Dovere di un cittadino. Ma io non sono un cittadino. Sono un cadavere. Ma... sono l'unico cadavere al mondo che paga le tasse. Ma... E questa poi è l'ultima. 88.000 lire sul valore dell'opolo di mio nonno. Va bene, si calmi, si calmi. E cercheremo di sistemare la cosa. E intanto cerco la sua tomba. La pratica. E volevo dire la pratica. Sì. Si accomodi, signor Moroncelli. Grazie. Ecco la pratica. Eccola qua. Senta, noi siamo pieni di lavoro fin sopra la testa. In 100 svolgiamo il lavoro di 1000 persone, quindi è umano che siamo un po' nervosi. È umano che siamo un po' nervosi. È umano. Oh, adesso il suo caso contribuisce ad aumentare questo nervosismo. Contribuisce? Contribuisce. E allora, se contribuisce, è un contribuente. E se è un contribuente, deve pagare le tasse per Bacco. E per Bacco no! Io sono un estinto, non un contribuente. Oh, oh, oh. Io non sono un contribuente, io sono un defunto. E allora si faccia il defunto. Lei non ha nessun diritto di gridare. I morti non parlano, mi sono spiegato. Lei è l'unico morto che è chiacchierone. Che c'è? Ma qui c'è uno sbaglio. Lo dicevo io. Ne ero certo. C'è uno sbaglio di uno zero. Di uno zero, di uno zero in più. No, no, uno zero in meno. Di uno zero in meno. Sono 880.000 lire che deve pagare il signore. Thank you. salvare da quella noia che sta uccidendomi, perché più niente, niente si fa con arte, e anche l'amore si fa in serio ormai. Perché il nostro capo di Stato a noi italiani non dà un po' di fiducia, miei cari italiani, direi. Voi non siete più obbligati a pagare le vostre tasse, pagherete soltanto quello che voi pensate sia giusto darci. Siamo di Equitalia. No, siamo cattolici qui. Thank you. I'm One night splurge up the side, get him to rock.